America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Avete appena sentito il tema di The Artist, uno dei film favoriti per ricevere la corona dai Golden Globe. I Golden Globe hanno annunciato ieri la lista dei finalisti per ricevere i premi, poi ovviamente la scelta sarà fatta più in là, ma questo è un premio piuttosto interessante a Los Angeles per due ragioni. Primo, perché è deciso dai corrispondenti stranieri e quindi è un po' un'intrusione a Hollywood degli stranieri, e secondo, perché alcuni pensano che questa possa essere un po' un'anticipazione di quello che sarà l'andamento dei premi Oscar. In realtà negli ultimi anni non è stata così, anzi negli ultimi 7 anni solo una volta c'è stata una coincidenza di miglior film per le scelte del Golden Globe e per quelle degli Oscar. L'anno scorso, per esempio, il Golden Globe aveva dato il premio al film su Mark Zuckerberg, mentre invece poi, come sappiamo, il premio degli Oscar è andato a The King's Speech, il discorso del re. È stata una corsa durissima quella dell'anno scorso. Comunque vorrei parlarvi appunto di Hollywood, di film, di candidati alla vittoria, e dunque non potrei farlo meglio se non con Antonio Monda, che direi è il principale esperto di film italiano qua a New York, insegna alla New York University, è critico, collega per La Repubblica, organizza festival. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Innanzitutto raccontiamo cosa sono questi Golden Globe, perché devo dirti che ogni volta che parlo con amici americani che lavorano nel mondo del cinema c'è un certo disprezzo, perché sono i corrispondenti stranieri. Parola forte, devo dire, neanch'io sono un fan, però non si possono ignorare. Il motivo dello snobismo l'hai un po' anticipato nella premessa, cioè è un premio non dato dagli addetti ai lavori, nel senso delle persone che lavorano facendo film, ma da giornalisti. E qual è il problema? Non che i giornalisti non siano titolati a farlo, per carità, ma non si tratta quasi sempre di critici. Sono coloro che fanno il cosiddetto colore, poi sono pochi, sono un'ottantina circa, e si trovano ad esercitare un potere non indifferente, perché come hai detto tu negli ultimi anni non c'è stata questa simmetria, ma credo che la percentuale sia al 60-70% delle volte in assoluto che i Golden Globes hanno, come dire, anticipato quello che succede nel premio più grande, che è l'Oscar. Vediamo i film, non facciamo la lista completa, ma vediamo quelli che così possono essere i favoriti. Sai che i Golden Globe hanno una differenza fondamentale rispetto agli Oscar. Innanzitutto ci sono anche alcuni premi alla televisione. E la seconda cosa, c'è una inusitata diversificazione tra i film di commedia e i film, diciamo, non di commedia, seri. Generalmente la storia ha insegnato che poi agli Oscar vince chi vince nella categoria non di commedia, appunto è una categoria seria. Il film che ha dominato, o comunque che è andato meglio, è un film francese, The Artist. È un film delizioso, carino, non ha nulla che non sia realizzato perfettamente, a cominciare dalla bellissima interpretazione del protagonista. Io lo trovo un pelo sopravvalutato. Ecco, raccontiamolo, è un film, per chi non l'abbia visto, è un film muto, in bianco e nero, vero? Assolutamente muto, tranne una breve sequenza dove si sentono dei rumori all'improvviso e il finale dove il protagonista finalmente dice una battuta. È molto piacevole, molto divertente, intelligente, è uno di quei film che alla fine si dimenticano una volta usciti dal cinema. Vorrei farti sentire il tema di un altro film, My Week with Marilyn. Gentlemen, it is my special pleasure to introduce a woman who clearly needs no introduction. A very great actress on her first trip to London. Marilyn, is it true you wear nothing in bed but perfume? Oh. Darling, as I'm in England, let's say I sleep in nothing but Yardley's lavender. My Week with Marilyn, anche lui è nominato tra le migliori comedy. Ecco, questo sembrava un film molto sottovalutato. Io in realtà, e qui mi butto in avanti, poi tu mi bacchetterai, ma non mi permetterei mai. L'ho trovato, devo dirti Antonio, abbastanza delizioso come film. Anch'io sono con te, è un film molto carino, una bella idea, è la storia di un giovane che va a lavorare come assistente alla produzione di Laurence Olivier mentre lui gira un film con Marilyn Monroe e inevitabilmente si innamora di Marilyn. È un film proprio studiato. fiato per il pubblico dei premi della award season, cioè degli Golden Globe, degli Oscar, eccetera. È un po' retro, non ha nulla che possa offendere, è ben fatto, è ben recitato, è veramente una delizia di film. Ecco, io devo dirti, sono andato molto prevenuto, avevo visto un po' le previews, invece è un film veramente molto molto ben studiato. Cos'è che fa secondo te la differenza in una situazione di questo genere? C'è un'idea di partenza bella, basata su una storia assolutamente vera. Il giovane ragazzo poi è diventato uno scrittore, ora non c'è più, è morto purtroppo, ma è studiato bene, raccontato dall'interno, sono tutti personaggi veri, Marilyn Monroe, Laurence Olivier, Arthur Miller, eccetera, con un misto di passione per il mondo del cinema e piacere di condividere con lo spettatore alcune cose un po' per addetti ai lavori. Secondo te, perché non si capisce nel film, ma hanno consumato Marilyn e il ragazzo o no? Il ragazzo è galantuomo e non dice. Hai sospetto che sia avvenuta la cosa, eh? England is at war! We are at war! I promise you that I'll look after him. If I can, I'll return him to your care. He's my own, sir. Antonio, chiudiamo con un grande film epico, War Horse, Steven Spielberg, grande attesa, il vero candidato con Help all'Oscar, tutti dicono, e probabilmente anche al Globe Award. So che l'hai visto. Sì, l'ho visto ieri in anteprima, è un film molto bello, c'è un finale un pochino zuccheroso, un pochino sentimentale, ma fino a quella parte finale, un film molto lungo di 2 ore e 20, diciamo le prime 2 ore sono tenute magnificamente. Non raccontarci il finale perché io ancora non l'ho visto. Non ve lo racconto, ma sapete che è la storia di un ragazzo che insegue il proprio cavallo che viene mandato in guerra durante la Prima Guerra Mondiale, diventa un cavallo di guerra. Ebbene, ci sono delle scene di battaglia strepitose e soprattutto mi piace come sempre l'umanità di Spielberg. Lui vede in ogni uomo, anche quelli che fanno delle cose malvagie, un essere umano da capire. E questo è una cosa che commuove. È un grande, grandissimo regista, mi ha molto colpito che non è stato candidato tra i registi dal Golden Globe, ma solo come film. Io credo che il film potrà andare molto bene, anche se è un po' una scommessa, perché il vero protagonista è il cavallo, non è neanche il ragazzo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, Reign of Terror, il nuovo album degli Sly Bales esce a febbraio. Nel frattempo abbiamo già online il primo single dal titolo Born to Lose, nato per perdere. Sly Bales, Born to Lose. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.